piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Natura, distanziamento sociale, libertà di movimento. Nelle vacanze post-lockdown, il camper sembra essere una delle forme di turismo più gettonate. A confermarlo sono i dati registrati a giugno dalle piattaforme di condivisione di camper tra privati, che rispetto allo scorso anno, nello stesso periodo, si sono viste quadruplicare il traffico utenti. E tra chi oggi decide di noleggiare un camper non ci sono solo veterani, ma soprattutto persone che hanno deciso di provare l'esperienza on the road per la prima volta. E moltissimi italiani, sono il 99%, mentre l'anno scorso il 46% del turismo in camper nel nostro paese era costituito da stranieri. Ho deciso di fare il viaggio durante la quarantena, dopo che ho fatto un periodo molto lungo a fare la mamma, la moglie, la lavoratrice, e ho deciso di ritagliarci un tempo per noi. Doveva esserci anche mio marito, però purtroppo, per fortuna, a seconda dei punti di vista, lavora. E quindi siamo partiti solo io e Marco, mio marito ci raggiungerà nei weekend. Diciamo che quella della vacanza in camper è una realtà che abbiamo spesso lambito in varie trasmissioni, in momenti in cui veniva considerato il viaggiatore in camper come una persona che aveva una particolare idea della vacanza, della scoperta della natura, o aveva delle necessità comunque di non legarsi a circuiti di viaggio e di residenza secondo circuiti tradizionali, ma aveva voglia di libertà o semplicemente voleva fare una vacanza avendo famiglie numerose all'insegna di una maggiore economicità. Quest'anno, ne abbiamo più volte parlato, le vacanze sono comunque sottoposte a qualche importante restrizione. Primo, ci sono meno soldi, quindi fra le tante preoccupazioni, per molti la vacanza e la villeggiatura è l'ultima delle preoccupazioni. Per altri è un bisogno irrinunciabile, però è vincolato da quelle che sono le necessarie norme di sicurezza, di distanziamento, di igienizzazione. In tutto questo, stranamente, singolarmente, in maniera del tutto imprevedibile soltanto 6 mesi fa, ritorna in auge fortissima la tendenza della vacanza in camper. Ma lo vedo da un dato molto interessante, perché c'è una popolazione di persone che normalmente non usavano il camper per andare in vacanza, non sono i soliti affezionati che normalmente sono avvantaggiati rispetto agli altri quest'anno, devono semplicemente tirare fuori dalla rimessa il loro camper, rimetterlo in condizioni di viaggiare e ripartire, guardando con una certa senso di soddisfazione le persone che hanno un'infinità di altri problemi. Io vedo da un sito che si occupa di camper sharing, cioè dei camper dati in affitto, perché è una bella spesa acquistare un camper, poi mantenerlo, il rimessaggio, la manutenzione. Evidentemente c'era già un pubblico che sceglieva di affittare il camper, ma in particolare quest'anno c'è stata l'esplosione delle persone a cominciare da giugno, dicendo dobbiamo andare in vacanza, gli hotel ci saranno dei problemi, molti sono chiusi perché costa moltissimo mantenere le condizioni di igiene, di sicurezza, pagare il personale, c'è una grande crisi, noi stessi non ci va di legarci ai luoghi tradizionali di vacanza. Perché? Perché non ci va di dover osservare il distanziamento necessario, mettere le mascherine ovunque. Prendiamo un camper, che in fondo è la maniera migliore, uno si prende, viaggia, va in strada, si ferma, contempla il paesaggio, in fondo si risparmia pure. Ecco, questa mattina volevo dedicare questa puntata a tutti coloro che hanno fatto questa scelta, la scelta del camper. L'hanno fatta perché tradizionalmente usano il camper, e quanti per la prima volta, secondo quelli che sono i dati che adesso vi esporrò, hanno deciso di affittare un camper, mentre tutti si preoccupavano del bonus vacanze, di trovare la situazione migliore alle condizioni naturalmente disagiate in questo momento, molti hanno detto ma facciamo una scelta, prendiamo un camper. Infatti sto vedendo che le varie piattaforme di camper sharing, sia italiane sia europee, stanno segnando un'impennata di attenzione. Sto vedendo ad esempio Yescapa, questa piattaforma camper sharing, da giugno ha registrato un 150% di visite in più rispetto all'anno precedente alla loro piattaforma. Quindi sono il segnale che ci sono delle persone che per la prima volta hanno deciso di prendere il camper. Intanto chiamate all'800240024 e dateci il vostro punto di vista se siete camperisti affezionati, camperisti con una loro esperienza accreditata o semplicemente la prima volta che avete deciso. Comunque le vacanze sono irrinunciabili, le condizioni sono difficili e noi prendiamo il camper. Sto vedendo altre realtà che naturalmente si stanno adeguando anche alla situazione. Varie piattaforme di camper sharing stanno rassicurando i loro possibili clienti che loro hanno seguito un percorso di sanificazione, di igienizzazione adeguato a quelle che sono le esigenze. Quindi vi danno dei camper che sono già perfettamente in regola con quelle che sono le norme sanitarie. Ma altri hanno deciso anche di acquistarlo il camper. Forse tutto sommato conviene, in previsione di futuri non sempre prevedibili, acquistarlo e quindi si risolve il problema una volta per tutte. Vedo i numeri dell'APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, sono previsti 1,2 milioni di camperisti che si riverseranno per le strade d'Italia nei mesi estivi, di cui saranno 800.000 italiani e 400.000 stranieri. Allora, io volevo a questo punto rinnovare la richiesta al pubblico di darci informazioni della loro esperienza, sia di camperisti tradizionalmente abituati a questo tipo di vacanze e di spostamento, sia piacerebbe cogliere questo nuovo campione d'italiano che mai avrebbe pensato prima di usare un camper, di servizi di un camper, e vista la situazione e la contingenza ha fatto questa scelta. 800240024, Simone Nicolai, buongiorno. Buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, Simone Nicolai è presidente dell'Associazione Produttori Caravan e Camper. Adesso, diciamo, in questo momento di difficoltà per tutti, tutto sommato il vostro settore mi sembra, se almeno leggo bene i dati che mi hanno fornito, segna un momento abbastanza felice. Ma diciamo di sì, i dati di immatricolazione di maggio e di giugno sono dati sicuramente incoraggianti. Tutto il comparto durante il periodo del lockdown ha reagito in maniera molto forte, adeguando gli standard produttivi alle nuove normative di sicurezza e riuscendo a garantire però gli stessi livelli di produzione e gli stessi livelli occupazionali. Questo credo sia un dato molto importante. Ecco, questo, possiamo magari dire qualcosa di più, dottor Nicolai, perché l'ho accennato io. Come si devono adeguare i camper? Prendiamo l'italiano medio che decide con la famiglia: noi quest'anno in vacanza ci vogliamo andare, abbiamo detto che il turismo diciamo locale e di prossimità sarà una delle maniere più frequenti di uscire comunque dalle città, dal luogo in cui si è stati chiuso tanti mesi. Acquistiamo un camper. Qual è la differenza rispetto a un acquisto che avrei potuto fare anche soltanto 6 mesi fa? Come cambiano i mezzi rispetto alla realtà che stiamo vivendo? Ma guardi, le devo dire in maniera del tutto onesta che i mezzi non sono cambiati. È proprio la tipologia di vacanza che garantisce uno standard di sicurezza ben diverso da tipi di vacanza che prevedono aggregazioni molto importanti. La vacanza in libertà ti permette di andare con la tua famiglia, con le tue cose, magari col tuo amico a quattro zampe. Decidi tu dove andare e soprattutto sei tu che decidi qual è la distanza giusta da frapporre fra tu e gli altri per sentirti sicuro. Quindi non è che i camper sono cambiati in virtù del fatto che adesso abbiamo un'emergenza. I camper sono stati così, danno questa enorme possibilità di un'estrema libertà all'interno di questo contenitore di libertà. Quest'anno c'è questo, diciamo, valore aggiunto, non da poco devo dire, che è la sicurezza nei confronti del Covid. I dati di maggio e di giugno ci sorprendono e credo che un po' l'effetto sicurezza abbia influito. Beh, io forse più, era più riferito ai camper che si affittano, che dicono se te lo affitto ti do una particolare condizione di maggior sicurezza, sanificazione. Chiaro che il camper che si acquista è sempre lo stesso, cambiano un po' forse le modalità di vacanza. Sentiamo qualche ascoltatore. Roberto, provincia di Perugia. Buongiorno. L'ascolto. Sì, sì. Sì, non so, sono in macchina, sono della provincia di Venezia, ma no, io ho un camper e volevo portare l'attenzione a tutte queste persone nuove che vengono a trovarsi o cercare una cosa su questo nuovo sistema di andare in vacanza. Lei è un camperista tradizionale, quindi è un camperista, diciamo, di vecchia generazione. Sì, io ho il quarto camper, ho un motorhome e tutto. Ma io dico una cosa a tutti, come quello che ho passato prima, come ho detto al suo collega: andate piano, avete un mezzo di 35 quintali, non lo fermerete mai. Non fate i lauda della situazione, andate piano, al massimo si va a 90 all'ora, tanto quando arrivate voi arrivano tutti, potete fermarmi dove volete, ma arrivano tutti, andate piano. No, no, aspetti Roberto, no, mi interessa che un camperista di alto bordo, di come si dice, non so, di esperienza, si sente in dovere di fare questa precisazione, perché lei trova che esista una generazione di camperisti novelli o novellini che non usano il camper con le adeguate prudenze e le adeguate maniere per poterlo portare nel traffico. Si sente in dovere di lanciare questo appello. Certo, c'è un problema. Tra di noi che siamo della vecchia generazione, io ho 62 anni, vedo quando prendono in mano un camper, anche, cioè, ho capito che si ha la voglia di arrivare, ma bisogna fare come i tedeschi: la vacanza si inizia quando si parte. Voglio fermarmi un caffè? No, mi prendo un cappuccino perché ci impiega più tempo a darmelo. Voglio prendere un bicchiere d'acqua? No, vado a scegliere la bottiglietta particolare. Cioè, il camper è un altro lifestyle, ragazzi, cioè è tutta un'altra cosa. Voi avete una casa che è la vostra casa, la vostra vita in mezzo alla strada, perciò dovete avere mille occhi, perché un 35 quintali, 34, 30, è inutile che vengono a dire, non c'è nessuno che rispetta quasi i limiti. Però è inutile andare a 120, 130, cioè è follie. È come se... Anche perché spesso avete biciclette attaccate, attrezzature varie, pitali, carrozzine, cioè molte volte c'è di tutto attaccato al camper. Molte volte c'è di tutto attaccato al camper. La maggior parte di quelli che hanno una certa storia di camper ha un'attenzione molto mirata al problema, e o con cinghie o con sistemi diversi crea una sicurezza per gli altri, non per se stesso, perché al momento stesso che la bicicletta vola giù è un problema per gli altri, non è per me. Cioè, sono 100 euro di una bicicletta, la posso prendere anche usata, non cambia niente, ma fondamentalmente il disastro che creo dietro è ineccepibile. Non è quello il fatto, è il fatto che bisogna avere attenzione con mezzi che non si hanno mai di portata, perché chi guida il camper anche lo guida 3-5 giorni alla settimana, 2, quando è il weekend o un weekend ogni tanto. Cioè, non è che la maggior parte dei mezzi che lei va anche a prendere a noleggio non li trova con chilometri stratosferici. Faccia conto che il mio del 2006 ha 68.000 chilometri. Oh, sentiamo, cioè, qualche altro. Vedo che i suoi colleghi stanno chiamando. Lei ha fatto una raccomandazione, poi sentiremo anche Simone Nicolai cosa da dire dal punto di vista di chi produce camper. Sempre Roberto, ma la provincia di Milano. Roberto, buongiorno. Ah, sì, grazie, complimenti per questo tipo anche di trasmissione, perché appena ho sentito del camper ho chiamato subito, perché ho avuto la possibilità da una mia vicina di casa, comunque del condominio dove abito, di conoscere il camper, innanzitutto prima per fare manutenzione alla batteria, che come al solito si era scaricata, lei non sapeva come fare, ho iniziato a manovrare un po' lì, e poi dopo mi ha detto: vabbè, se lo vuoi usare qualche volta lo puoi usare, e così ho iniziato ad usarlo. Cioè, la vicina l'ha chiamato, dice: dammi un'occhiata al camper che non parte. Naturalmente, esatto, come accade anche alle automobili domestiche, la batteria è andata giù perché sono mesi che non si usano, non si sono usati i mezzi. Lei esatto, ha fatto esatto. diciamo, il riparatore del danno, e in cambio generosamente la bicicletta, se vuoi te lo do, usalo. Sì. Infatti l'ho usato un paio di volte, adesso mi piace e spero di usarlo ancora altre volte, se mi darà la possibilità di usufruire di questo, ma la vicina questo bene. Lo tiene così, lo tiene parcheggiato nel giardino o lo usa anche lei? No, lo usa ma non lo usa spesso, perché io per esempio sono in pensione, lei invece lavora e quindi io ho un po' più. Ma la famiglia, la sua vicina? Sì, ha un figlio. Sì. E lo usa, quindi diciamo, con la... che sì, lo scopo figlio. Finale sarà che andiate tutte e tre assieme a fare un giro in campo, no, perché il giro che ti gira è quello, e non ci giriamo intorno, su, alla fine. No, c'è, diciamo, un giorno andiamo tutti assieme. C'è differenza d'età, sì. No. Vabbè, ma quella si supera. Usare il camper di un'altra famiglia, penso che sia una condivisione molto, molto intima, anche oltre, nel senso, io per far entrare un estraneo a casa mia e lasciargli casa, adesso una persona che conosco, è anche sì. Un atto di grande fiducia, quindi, sì, quello sicuramente. Marco, infatti quando vado in giro cerco sempre di stare attento a tutte le cose, come diceva prima l'ascoltatore, la bicicletta per esempio l'ho caricata dentro perché ho paura che magari fuori non si attacca bene, poi possa cascare per strada. Devo dire La saluto, la ringrazio. Siamo pieni di telefonate, ci fermiamo soltanto un istante e daremo voce ai camperisti, sia quelli novelli sia quelli di antica tradizione. A tra un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Per l'apertura del tendalino dobbiamo andare a prendere l'asta, normalmente posizionata in un gavone, è telescopica. In camper si sta bene, non ci sono problemi di scarafaggi. Quando ci mettiamo in cucina, rimuoviamo il repiano da tagliere in modo che non ci dia fastidio. Creiamo aerazione perché in ogni caso utilizziamo una fiamma libera ed è ottimo anche per smaltire i vapori. E dispieghiamo le pentole che intendiamo utilizzare. Allora, il sensore di parcheggio che noi abbiamo acquistato su internet alla modica cifra di 8,80 euro. Il pacco è arrivato, eccolo qua, parking sensor, ora sto verificando il contenuto della confezione. Centralina, sensori, qui ci sono i suoi sensori, c'è addirittura la sua punta per poter effettuare i fori nei paraurti. Stiamo ascoltando un tutorial preso da un canale YouTube di appassionati di camper. E naturalmente questo è l'argomento del giorno. Abbiamo tantissime telefonate, non sospettavo che ci fosse una così grande affezione per il camper. Abbiamo al telefono Simone Nicolai, che è presidente dell'associazione produttori caravan e camper. Le faccio una domanda che sto desumendo dalle tante telefonate che stanno arrivando. Dottor Nicolai, forse ho, nella mia poca esperienza, detto che molti prendono il camper perché è una vacanza che fa risparmiare. Non è esattamente questo. Gli ascoltori mi dicono: ma no, noi andiamo nel camper perché ci piace, è una scelta di vita, non è che si risparmi. È comunque una vacanza che ha i suoi costi. Qual è la giusta risposta a questa mia forse inesattezza? La giusta risposta gliel'hanno data i camperisti. Noi non abbiamo mai detto che la vacanza in camper è la vacanza più economica che puoi fare. Abbiamo sempre detto che la vacanza in camper è la vacanza più bella che puoi fare. Questo è sicuramente la verità. Un camper ha i suoi costi, non sono costi esorbitanti, perché poi bisogna dare la giusta dimensione alle cose, perché comunque una vacanza in camper non costa molto di o di più di una vacanza tradizionale, ha le sue caratteristiche che sono diverse dalle altre e sicuramente non è la più economica. Questo è la pura. Sì, poi ci sono i costi, diciamo, di mantenimento, di rimessaggio, di manutenzione del camper. Questo però, ecco, questo è un pregiudizio che può esistere persone come me che non hanno mai fatto una vacanza in camper, uno pensa che vanno in camper perché è una maniera per risparmiare. Lei mi conferma in realtà che il fatto non è così, ma è anche l'opinione di molti altri ascoltatori. Marco, provincia di Padova. Buongiorno Nicoletti, allora io l'ho preso a noleggio 10 giorni, 15 anni fa, e volevo proprio parlare del... La sento malissimo però, penso che sia caduta la linea. Ok, prendiamo un'altra persona, poi lo recuperiamo. Giampiero, provincia di Vercelli. Salve Giampiero. Nicoletti, pronto? Mi sente? Sì, l'ascolto. Pronto? L'ascolto, sì. Sì. Guardi, io sono camperista da sempre, praticamente. Ho cominciato con 15 anni partendo con la canadese due posti e poi nell'evoluzione roulotte e poi camper, ovviamente. Ma il camper è una filosofia di vita, perché penso che uno che oggi decida di affittare un camper per poter fare una vacanza, penso che non riesca appieno a prendere, cioè a gustarsi la vacanza, perché le cose da imparare sono tantissime. E il camper è una filosofia. Io ho viaggiato praticamente quasi tutta Europa, ho viaggiato in Islanda, ho viaggiato anche negli Stati Uniti in camper. E le posso garantire, quest'anno farò le mie ferie e le passerò in Italia per la prima volta in estate. Anche se negli anni passati noi camperisti eravamo visti come fumo negli occhi, nessuno ci voleva quasi. E sì, c'era probabilmente un pregiudizio perché c'è questa idea che la persona che comunque ha una vita nomade è una persona che desta pregiudizio, desta perplessità, ma questo naturalmente è un concetto sbagliato. Lei mi sta confermando quello che sto imparando questa mattina, ma facendo radio si impara ascoltando le persone che parlano, che in realtà è una filosofia di vita profonda, implica una scelta quasi filosofica, non è una scelta di opportunità. Alessandro da Milano. Alessandro. Pronto? Alessandro, l'ascolto. Buongiorno, ecco. Senta, io volevo raccontarle un po' la mia esperienza che ho avuto riguardo al noleggio di un camper e rispondendo al signore che parlava prima che una vacanza con il camper è più sicura per quanto riguarda il Covid. Guardi, io ho affittato un camper per una settimana, sono andato alle Cinque Terre pensando di poter fare la vita in libertà, insomma l'avventura in giro, mentre invece ogni posto in cui mi fermavo, la prima pattuglia dei vigili che arrivava mi dicevano cosa facevo lì e dovevo andare nelle aree preposte, in pratica mi dirottavano nei campeggi e non c'è niente di più promiscuo del campeggio, i bagni sono in comune e non so se lei è mai stato in campeggio. Il campeggio, figuriamoci, era la mia vacanza da 18 a 25 anni, esatto. Certo. Il vice chimico è obsoleto, una famiglia di 4 persone in un giorno non serve, in pratica. Ma mi spieghi, scusi, sono delle normative che proibiscono di fermarsi in aree non preposte? Non si può parcheggiare? No, assolutamente. Lei col camper non è che è in libertà. Lei va e poi va nella zona preposta del luogo in dove lei ha scelto per fare la vacanza. Quindi andare comunque in un parcheggio o in un posto dove si affitta. Esattamente. Il problema probabilmente è proprio questo, è che si dovranno attrezzare anche le aree che sono destinate ai camper. Se c'è questo momento esponenziale, penso di quindi sì. Dovranno sanificare i bagni, fare piazzole più distanziate, tutto quello che stanno facendo gli altri. Questo è un problema, vorrei sapere se qualcuno degli ascoltatori mi può aiutare anche a porlo nei termini giusti, cioè capire, tantissime persone, mi fermo un istante e poi le faccio parlare. La domanda è questa, gli italiani stanno riscoprendo il camper, stanno facendo la scelta del camper, perché da un punto di vista ideale è quella che in qualche maniera permette di fare una vacanza, sembra più sicura, però bisogna capire se le attrezzature lo permettono. Ci fermiamo un istante. Melog. 800240024, ringrazio per questa puntata Peter Bescapè, regia a Milano, Anita Panizza in assistenza, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti da Roma, e andiamo ai tantissimi ascoltatori camperisti che oggi hanno trovato finalmente la trasmissione che li rappresenta. Sandro da Mantova, buongiorno. Sandro è morto, morto nel senso come telefonata. Angelo da Milano, provincia di Milano. Caduto anche Angelo. Evidentemente tutte queste persone chiamano dal camper, quindi sono in movimento e c'è una particolare difficoltà. Pino da Torino. Sì, buongiorno. Buongiorno. È in camper lei, Pino, in questo momento? Sto partendo, guardi. Aspetti ancora 30 secondi per fare questa telefonata, sennò cadono tutte le telefonate. Allora, Pino, andiamo al punto. Allora, niente, 15 anni fa ho avuto la bellissima idea di comprare questo camper ed è stata la cosa più bella e magnifica che abbia fatto in tutta la mia vita. Nell'arco di una vacanza vedi dei posti che ci vorrebbero 10 anni di vita per poterli fare, perché poi ogni giorno puoi cambiare scenario, panorama, città, paese, è una cosa meravigliosa. Guarda, sono emozionato a dirlo, non ho parole. Cioè, quindi lei mi conferma che non soltanto è una scelta di vita filosofica, un modo di concepire il tempo libero, ma anche un'emozione profonda. È un'emozione che mi commuove, guardi, perché le cose che ho visto in 15 anni, l'Italia l'ho fatta palmo a palmo, cosa che è impossibile farlo con altri tipi di vacanze, è impossibile. Ma mi risponde alla domanda che ho fatto prima. Secondo lei le strutture poi di accoglienza dei camperisti sono adeguate? Perché diceva il suo collega, cioè, poi dobbiamo andare in un camping che c'è una promiscuità che in realtà ce n'è per tutti i gusti, dei campeggi alle aree soste solo per i camper, ai punti comunali, cioè per tutti i gusti e per tutte le tasche. Se uno vuole stare bene vai in un campeggio, paga di più, ma tutti i servizi in campeggio ci sono, quelli a 3 stelle, 2 stelle. Se no l'alternativa al campeggio qual è? Le parlo di ci sono le aree camper predisposte per i camperisti, tipo la Francia è pienissima, ogni paese ha un'area camper, perché lì proprio il paese dei camperisti, la Francia. Ogni paese ha un'area camper. In quel caso camper, uno si attacca, diciamo, alla presa di energia, cosa ci sono? Puoi trovare le camper che ha anche le docce, oppure qui la corrente sempre, lo scarico, il carico. Ma per se uno l'acqua. Volesse mantenere il distanziamento, le norme di sicurezza, se ne sta dentro il suo camper, parcheggia, è stata una casa sua. Ha voglia, ti fai dei fronti mare che neanche alberghi di 5 stelle ti danno la possibilità di fare di fronte mare col camper. Adesso io vado in un posto dove mi mettono praticamente col camper sulla spiaggia in Calabria. Cioè sfido chiunque ad avere un albergo così. Con 20 euro al giorno pago. Lei può scendere, fare il bagno e tornare dal suo camper. Certo, certo. È questa la cosa meravigliosa del campo. Ma io sto imparando in questo momento. Ho sempre avuto un mio personale, lo sa, non so, a me non piacciono gli ambienti, non mi piace la promiscuità, sta con altre persone dentro una casa che cammina, non lo so. Ma sono miei problemi, dico. Angela da Milano, finalmente una signora. Angela. Sì, ciao. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Volevo darvi la mia esperienza recentissima, perché abbiamo acquistato il camper a Taio e abbiamo fatto il weekend esattamente quello del lockdown a Venezia. Esperienza spettacolare, perché Venezia era praticamente vuota. Quindi scusi Angela, l'avete acquistato quando ancora non c'era questa certezza che il coronavirus ci avrebbe bloccato in casa? No, noi l'abbiamo acquistato al salone del camper l'anno scorso. Quindi non si sapeva assolutamente nulla del coronavirus, era proprio una cosa che volevamo fare da tempo. E ti devo dire che è cascata un po' a fagiolo, perché l'unico pensa che botta di fortuna. Sì, tranne nei mesi del lockdown, perché naturalmente le rate ce le abbiamo comunque, però non lo potevamo utilizzare. Però lo mettevate in giardino, potete starci dentro. Vabbè, vivendo a Milano col giardino è un po' difficile, però ti devo dire che abbiamo fatto qualche weekend nel camper, giusto per avere, anche se eravamo nel parcheggio fermi, ma almeno avere quella minima impressione di essere via. Ma intanto via. Facevate l'abitudine a vivere dentro il camper, sarà per voi la prima volta. Quindi la vostra è stata una scelta tutto sommato fortunata oggi rispetto ad altri che si devono arrangiare dove andiamo, quello è chiuso, lì bisogna stare distanziati. Partite con il vostro camper, come ha detto l'ascoltatore prima, ci sono delle possibilità che noi non immaginiamo, noi profani del camperismo. Marco, provincia di Padova. Nicoletti, io l'ho noleggiato 15 anni fa, 10 giorni, quindi la mia esperienza è quella lì. Volevo ritornare un attimo all'aspetto economico per dare un consiglio a chi lo vuole noleggiare per fare una vacanza. E il camper è parecchio costoso perché il noleggio quotidiano costa intorno ai 100-120 euro al giorno per una buona macchina. E attenzione, il consumo fa 8-9 chilometri con un litro di gasolio e poi devi aggiungere, per non stare in balia dei farabutti che ci sono in giro, non è che alla sera ti puoi fermare dove capita, anche se certo, i vigili certo. Non ti mandano via, soprattutto se hai dei figli o sei con tua moglie, con la tua fidanzata, sei costretto ad andare dentro una struttura, a un campeggio, a un qualcosa per la tua sicurezza, e là sono altri 20-30 euro, quindi non sì, è però per niente... Sì, questa cifra immagino che lei debba dividerla minimo per due persone, ma chi va con la famiglia chi sono va magari con la famiglia quattro persone. È tutto a carico della famiglia. Ultima cosa, chi l'ha comprato è d'accordo con tutto quello che ho sentito, però attenzione, chi ci mette, dico una cifra più o meno, diciamo 50-60 mila euro per comprare un bel camper, dopo non è che lo può usare solo 2-3 settimane in agosto. Per ammortizzare una spesa del genere lo devi usare almeno una, minimo una, due volte al mese. Beh, ma penso i camperisti lo usino anche per passare il weekend, per fare passeggiate. Lei comunque ha posto sul piatto una domanda, lei dice attenzione, se lo comprate poi è un investimento, ma anche una seconda casa è un investimento, poi bisogna pagare le tasse, il mantenimento, l'inverno se una casa è in montagna c'è la manutenzione, l'estate c'è la manutenzione se la casa al mare, insomma la vacanza è un lusso, non è qualcosa che rientra nella norma delle attività fondamentali, essenziali per sopravvivere, è un lusso ai suoi costi, chiaro. Sandro da Mantova, parlato? No. Sì, mi sente? Sì, l'ascolto. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Allora, io volevo fare una mia esperienza. Allora, io mi sono insegnato al camper come noleggio, consigliato da amici. Quindi io ho 52 anni, premetto, e ho fatto anni. A 40 anni, 35 circa, sono insegnato al camper. Dopodiché mi sono trovato benissimo, mi trovo tuttora bene, però vorrei dire a coloro i quali hanno intenzione di portarsi, attenzione, perché è verissimo tutte le esperienze che hanno portato, è bello di cui è una filosofia, come diceva lei prima, è una filosofia, non c'è neanche tanto per guadagnare rispetto all'hotel o quant'altro, è uno spirito. Sì, questo l'abbiamo capito, sì. Perfetto. Però chi ha figli soprattutto, i figli diventano grandi, iniziano a dire, ma però c'è un amichetto, lo si userà sempre meno. Quindi dico, il Covid sparirà, ce lo auguriamo tutti. Quindi dico, attenzione, andare a investire cifre che partono dai 10.000 euro, per dire un camper super usato di 20 anni, a spendere cifre 40, 50, 80, chi più ne ha più ne metta. Attenzione, perché dopo, come dicevano tutti gli ospiti, c'è la manutenzione, c'è il rimessaggio, sta fermo. Sì, ma non sempre si fanno pensieri a lunghissima scadenza. Uno dice oggi voglio godermi questa libertà di andare dove voglio con il camper. Si compra il camper, poi lo rivenderà, lo affitterà, avrà fatto un investimento che non userà per tutta la vita. Però mi sembra aver capito che c'è una grande felicità di fondo nelle persone che fanno questo tipo di vacanza, e questo è un valore che secondo me non ha prezzo. Grazie a tutti, alla prossima, anzi.